mangi un cucchiaio al giorno, è come che ti mangeresti una caramella al giorno, dai. Lo so, lo so. Ma sto prendendo il miele, mi fa meno male. Il miele? Il miele fa meno male dello zucchero, lo sai. E mai ha l'alto contenuto però di cosa, A questo punto non lo so più. Che di zuccheri che c'ha il miele, non so, non è zucchero, è fruttosio, è fatto dalla frutta, dai fiori. Non sono zuccheri di canne, non mi fa male quello di canna, capito? Quello è cazzo, non è stato dottoressa, che il miele lo posso prendere. A me l'hai detto che no. No, te l'hai detto. E allora ci deve venire pure d'accordo, bisogna così da capapà, che devi usare di stile. E allora ne gioco. E guarda quella bambina che c'ho già scritto. E comunque adesso ho scoperto che c'è uno sciroppo senza zucchero, me lo stava dicendo questa amica mia che ha un'amica che è farmacista, gliel'ha chiesto, gli ha detto, oh, guarda che c'è, c'è un tipo di sciroppo che non c'ha zucchero per i diabetici. Ehi, ha saporato che c'è, guarda poco qua, guarda che c'è, io non mi ricordo come si chiama, ma c'è. Adesso lo vediamo, ma non sarà molto abile sicuramente. Perché da quando tu prendi sviluppi molto vabbè, tutti gli sviluppi devono andare in balanza. Sì. Boh, vabbè, come? Adesso vediamo. Prendiamo quello. Solo che me lo devi dire alla dottoressa che esci un po' questo qua. Perché io non ne so, se vuole farmacia non me ne danno se ne dà ricetta. Molto vabbè, non so quali sono, tutti gli sviluppi normali sono tutti da balanza. E quei motobili sono quelli con antibiotici. Insomma, è tutta una buttitura. Ma che vuoi che c'è malattia, ma cosa? Avere il pilare di pagare un ticket. Cosa la paghiamo a fare se questa malattia? Sì, le sono tante cose che paghiamo, inutile. Io sono come lo devi pagare. Perché le pomate, per esempio, c'è qualcuno molto abile, tranne le pomate lo stesso, se ti vuole la ricetta, che sono molto abili, quelle a contenuto di antibiotico o le altre, come cavolo si chiamano, no, non me la metto. Ecco, vabbè. Comunque la febbre non deve essere abbassata, non me l'ho misurata, non mi deve essere abbassata, però mi sento questa debolezza, mamma mia, domani mi tocca andare a Ria. Domani devi andare? Fatto dirmi un po'. Devo andare presto oppure tardi? No, alle 9:15 devo essere lì. Speriamo che non mi metta un altro bandaggio dopo che mi ritorno. No, credo che un leggero te lo mettano. Così. Cappa cappa, non sono andato manco a vedere mia sorella ancora perché sono così. E voglio andarci, cavolo, però con questa febbre che ci avevo non sono potuto andare. E oggi mi hanno telefonato. Mi ha telefonato mio nipote. E beh, Gio Gia, come stai? Non sai come sto, te l'hanno detto che mi hanno operato. Sono andato da mamma, mi ha detto, e mi ha accompagnato l'educatrice. Oh, beh, loro erano fatto. Sì, per fargli vedere la strada, hai capito? Così almeno lui se la ricorda, tanto il tram ferma vicino adesso, proprio di fronte all'istituto ferma il tram. Dove va? Scendendo da San Pietro, e poi dice che c'è una classe che gira a sinistra, e c'è un istituto nuovo, c'è istituto San Nicola. Ho detto che è molto bello, certo, è molto bello, il personale è molto accogliente, mi ha detto l'educatrice, che sono molto gentili e tutto. Io non ho mai visto, non so manco come te, nuovo, per Parmato va poco, non è che sia una cosa vecchia. È un istituto fabbricato da poco, per quello che adesso non è che tutti lo conoscono. Ci sono anche quelli con la SAS. Ah, ecco, è nuovo. Ecco perché non lo conosco nemmeno. È nuovo, già speriamo che lo facciano durare anche nuovo a chi riconosce l'apre da pure da sparare per paura del comune. Questa è una struttura privata, però che è collegata con la SL, capito? Ci hanno contatti con la rianimazione, il dottore della rianimazione va anche là, capito? Sotto richiesta loro va anche il dottore della rianimazione, per dire, la laboratoria l'ha accompagnati tutti, il primario. Ma se succede un'urgenza, cioè che hanno bisogno, questi che sono in coma così. Ci sono i dottori dentro, ci sono dottori per fare, è un ospedale a tutti gli effetti, un ospedale privato, ecco cosa. Ci sono i dottori, ci sono gli animatori, c'è tutto il personale. Ah, ecco, io pensavo che non è stato vero lì, diciamo, persone messe così. Ci sono tutte le... Addirittura ci sono anche psicologi, perché il psicologo ha detto che ci vuole parlare tutti i familiari, e quindi vuol dire che ci sono anche... c'è anche il psicologo, capito? Stava guardando, però sei nuovo, e ce la si fa sempre piacere queste cose che possono accogliere persone così, che insomma ultimamente non è che queste cose ci siano un po' accennate adesso, figurati qua a Sassari, non è che sono nascite cose così, no. Allora, ha detto il primario, se non fosse stato per loro non avremmo saputo cosa mettere in piedi. Ci sono di vero aiuto e sono persone veramente in gamba, dottori in gamba, eccetera, eccetera. No, gli avvantati anche il professore della rianimazione. Avanti, avanti. Poi la domania. Antonio. Dimmi come mi sto sistemando, Sistemati. Io ancora non ci sono andato, esattamente non lo so dove, però più o meno ho capito. Ma è la strada che porta da San Pietro a Piazza. Sai che io ci transito spesso lì, no? Vabbè, non ci avrò fatto caso, Non ci avrò fatto caso perché sono quei cambiamenti che ci sono, io ho visto. Ma sinceramente non... Ma adesso già guardo a vedere, perché io ci... Lo espresso per le consegne. Ci sono anche ieri mattina, ha fatto delle consegne, dice che ci sia scritto San Nicola, l'istituto San Nicola, una cosa del genere, capito. C'era una palestra, dice che è un bel grado, gli hanno fatto visitare tutto l'istituto. Che è a modo di ospedale, dai, sono ricoverato di rianimazione, non è un istituto normale, dai. Tutti quelli che sono stati in rianimazione, che devono fare riabilitazione, tanto per stare sulla sedia a rotelle, non per altro, ma ci sono tutti quelli lì. Io ho capito che dove c'è l'ufficio del registro, mi pare. L'ufficio delle entrate? Esatto, delle entrate. Subito perché non ho la struttura, capito? Se c'è una nuova struttura. struttura si nota subito. Già. Ehi. No, ne ho visto uno lì, vicino, dove, via Milano lì, via Venezia, dai, dove c'è la Fiat. Sì, ho visto sotto che c'è un coso che c'è scritto San Nicola. No, non è quello lì, no. Non è quello lì, ma vabbè, San Nicola, io pensavo che diceva fosse la chiesa del Duomo, roba così. Perché San Nicola è la chiesa del Duomo. E quindi pensavo che fosse lì quella della vecchia, non ma tu, chissà torna con la solita criminale che ha parlato pure di fronte a noi, chi se l'ha fatta buona, chi se ne ha parlato tanto, no, per fronte al suo capannone, ha detto un'altra, poi cosa ne cola, e chi viene a noi la Santa Rita, poi la Santa Giuseppe, la Santa Bruna, poi un po' il nome del Gesù di Gio, quelli che erano citati in giornale, già che erano cosa possibile, mettevano quegli anziani, che ultimamente li hanno sistemati in un'ala di albergo lì, li hanno affittato quello dell'albergo, cazzo, che c'era un'ala che era, diciamo, non poteva fare altre cose, no? C'era un po' di distanza, erano divise, e lì avevano assistito tutto così, lo dico, e anche se non lo sai, sarà di Bolivia. Dura nuova però quello lì, l'ho visto lì a piano terra, e nuovo nuovo sta nascendo quel palazzo, ma non so, chi sa è? Chi sa è, guarda, lì è quello che è trasero nuovo, io sono lì la donna a Sarraia, sto prendendo il sistema. E non lo fornivo io quello lì, non so che cazzina di vita. Lo fornivo io a quello lì, lo fornivamo lui. Ma sai quanto ti devi dare di là? Ma c'era Platamona? Ma ce l'avevo, a Platamona dove c'era il ristorante, come si chiama, Ernesto? No, come si chiama il ristorante che c'era lì? E vabbè, quello lì, poi ce l'aveva, visto dove hai avuto il centro con la vicoltura, con la moto, lì c'entrava, era un viotto, era tutto blindato, va via, sì, con i cancelli, ma entrava. E poi ci arrivava lì, in questa casa dove c'erano gli anziani, tutto chiuso, ermeticamente, con telecamere, poi aveva la casa di boss. Sì, insomma, casa, la sua la villa che c'era lì era bella, perché la villa c'era fatta queste specie di catapecchie, ragazzi, se vogliono anziani, dimmi. Insomma, comunque già lo conosco perché lo fornivo io. A pedane la roba la comprava, solo che a pagare. Forse, non so, non ti ricordi, ma al tempo del ciso, ma prendevamo anche noi ambulanze. La buon'anima, adesso non ricordo una volta che ho fatto lo scalo, che abbiamo trovato due anziani per terra. Aspetta. No, ma era tutta la cucina senza luce, c'era, non c'aveva luce. Non mi ricordo chi me l'ha detto che lavorava lì e se n'è andata perché mi facevano lavare gli anziani con la stessa acqua, due anziani con la matriceva che non aveva nieva. Insomma era una cosa a dir poco pietosa. Ah, se ce n'era alla gente che ci andava e facevamo vedere le prime stanze che c'erano, che avevano fatto a mo' di ospedale, con un pezzettino sono lanciati 200 metri quadri di cose, ma se ne vedi tutti i dati che si davano, che poi sopra era coperto, la copertura era fatta a terrazzo, catramata così. D'altra parte però ce le mettevano dall'altra parte più giù, ma era addirittura coperto con quell'onduline. Già lo so, era un casino entrare lì a Platamona, era un viale stretto stretto, cioè gli alberi che sporgevano, e dovevo farmi tutto il viale a retromarcia per arrivare lì a scaricare, no, se no se andavo a marcia avanti mi dovevo fermare un po' prima, non ce la facevo, e dovevo trovare tutta retromarcia, un viale stretto stretto, dovevo fare tutto quanto a retromarcia col carico, perché prendevo tutto dalla carne, tutti i pezzi di roba da mangiare, roba alimentare, formaggi, prosciutti, di tutto. Non va fottito? Eh? E non va fottito? Sì, sì, ci deve un bel po' di dinamico. Non so già. che c'era un altro fornitore che riforniva l'acqua, le cose così, no? E sinceramente non so perché ordinavano anche, ma io ci devo cercare, ma ordinavano anche delle casse di vino. Caso non so quanto debito gli hanno lasciato già, 6 mesi di debito. Infatti le ultime volte il principale ci ha detto se vengono a pagare, ok, se non li mandate niente. Ma quello è stato sempre così, ma non ho mai detto da allora di Platamona, quelli di Platamona, non so cosa ha fatto, stavano lì come la terra gioventù, in quello ristorante, chiamo si chiama, non me lo ricordo, e avevano trasferito lì, avevano aperto lì, dopo di lì che c'è il corso, l'hanno chiuso il corso, poi come si chiama, dove c'è l'ufficio del lavoro dei validità in via Umberto 90, caso da lì proprio con la questura li hanno mandati via. È un tramposo. Sì, è da prima di tutto, lì è proprio casa tua. Beh, già c'era la nonna di Lucca, no, la zia di Lucca c'era a Placciavola. Di Lucca? Di Lucca Manicco. Ah, vero? Infatti ti ho detto, prima di venire a subito a chi fa carezzare di io mi ricorderò solo una storia, una volta, sono andato a scaricare la roba e c'era questa vecchia, ci ha preso una Coca-Cola al frigorifero, l'ha vattulicata, tu la devi toccare, mettila a posto, l'ha pigliata la mano, e mi l'ha buttata a lì, se si buttava a pigliare, voglio la Coca-Cola, adesso mi la Coca-Cola, si è messa a piazza. Per carità, quella è una persona bruttissima, mamma mia. Sono tramposi. Intanto non li guadagni niente, apri, sara, le parlo sempre, senza igiene, senza nulla. Adesso dico io, te lo fanno una volta, cerca la prossima volta quando apri di metterci igiene e quello che ci vuole, o no? Ma non gli vengo mai lasciati i permessi perché lei fa delle cose così, perché fare tutti i permessi e cose in regola. E venivoni, che poi devono avere obbligatorio un medico, devono pagare mensilmente. E dico, guarda, non è facile. E quindi no. Lei fa sempre tutte queste cose abusive, così. È una gran cosa pure. Ma non li trattano manco bene, infatti è quello. Sì, infatti uno due, la candela che ho fatto ora, da cui siamo stati tutti chi si era preso in sasso, e grazie a me ha girato uno due, anzi, perché tutte quelle persone anziane che devono fare certe terapie di luogo, e cazzo le pareti che lasciano perché vogliono le medicine, delle medicine a parte, si buttano in suolo le medicine in luogo, allora le terapie lo sai quanto va per creare anche subito. E così che vale prima. Poi, per carità, c'era una ragazza che ci parlava, io lavoravo lì e mi ha detto che se ne voleva scappare, che lì gli piaceva lavorare, però il suo lavoro lo voleva fare come professione, non così, che gli facevano fare cose assurde e cose e se ne vanno a male il lavoro, però se ti trovano facendo queste cose qua, ti vuole i 30, sei attenta. Dice, ma non mi prende da me, infatti io me ne voglio andare, sto cercando un'altra struttura a lavorare perché me ne voglio andare via. Ma guarda, la certezza non c'era, però a quanto pare quando era lì al corso sono state date delle medicine sbagliate a una persona e i parenti che io conoscevo non hanno voluto approfondire, hanno lasciato perdere così e non so perché, comunque era da approfondire, ma era strana, la cosa era un po' strana. A chi, una che era in Cile, io conoscevo, che lavorava in Cile, che era guardate, che avevo usato il soccorso, lo sai che se ne è andata subito immediatamente perché mi ha detto io queste cose non le voglio più vedere, mi dispiace per il lavoro, perdo il lavoro, però quello che ho visto io quel giorno lì non lo voglio più vedere. Non è sbagliato, le puoi dire che è sbagliato, uscita? Sì, Uia. Non me l'ho voluto dire completamente, ma infatti ho mettere perché la conservo, uno dei figli di questa qua e la volete attenzione perché sono da una persona che hanno sbagliato la terapia perché me l'ha detto una che ci lavorava lì e se n'è anche andata e loro invece vabbè lasciamo perdere, non vogliamo stare lì a rivalgare e l'hanno lasciato perdere, beati loro. E non dovrebbe stare a guardare, hanno fatto ammazzato un parente loro. Dopotutto non è che non è questa di attaccarsi a queste cose, però sono cose che chi sbaglia deve pagare, c'è poco da fare. No, sono cose troppo delicate. Esatto, allora lui ci pigliamo e poi vabbè. Poi se dice senz'altro sarà anche così. Ma se ne conti, vabbè, c'erano 85 anni, mi fa una cosa del genere, magari ha detto mi andrà voi, me la portite. Vabbè. Deve essere non ci sarebbero molto la madre, scusa se te lo dico, però ma è così. No. È quello che è la prima cosa che mi è saltata in testa e così agli trasferimenti, che non è che ci tenessero poi tanto. Se ci tenevano sono tenuta la mamma. Ma che cosa non ho fatto? Eh beh, magari per loro è stata anche una liberazione. Non dovrebbe andare a trovare, non dovrebbe pagare più l'ospizio e cosa. Venne di ieri, già sapete, se ce n'è da prendere, tutti sono buoni. Ma da, quando venne da là, boia! Anche quello già c'è. Ma cosa vuoi dire? Io non era una cosa che adesso, ma sicuramente da sottoterra non aveva cavato, no, cazzo lasci perdere, no, ma non esiste proprio. Perché se aveva 85 anni, magari ne poteva vivere a 10 o 20, cosa c'è? Beh, tu pensa che innanzitutto, siccome ti la cucina, no, la mamma, diciamo che è entrata in quell'istituto in piedi, in giro di, cosa sarà stato, non so, 2 anni, e forse 2 anni, dai, no, forse non c'era neanche dai 2 anni, in giro di 2 anni quella è finita in un letto, è finita, a me non se ne è più pesata, non se ne è appagosa, cioè, c'era un sacco di cose da approfondire, dai, non, però pensarci, cazzo, non mi fa lo schifo, infatti io qui, quegli istituti, brava mia, per carità. Dove ce ne sono gli assassini che sono come si deve, San Paolo, quello di via Valdema, e quello di Serra Secca, due sono, ma non ve ne altri, come si deve così, perché che se vai a San Paolo, io ho fatto un po' di urgente, ci sono le sole di San Paolo, ma tu devi vedere, è uno specchio quello di questi istituti. Guarda, è una cosa allucinante, pulitissimo, con un fumo di pulito brutto. Se vai, non so, sono andato anche a quello di Serra Secca, c'è lo tutto palestra, pulito come istituto, insomma, ho visto che è un bel istituto anche quello. Ma io dico una cosa, per me vivono bene a casa loro, non lo so, io lascio il pensiero agli altri per mio pensiero, per esempio mia madre sta bene, vabbè. Allora che trascinò me la pulisco come ho già fatto, è stato all'ospedale, è stata male, ha subito l'operazione al cuore, che era più là che qua, in 2 anni ne siamo insomma venuti fuori, però l'istituto neanche a parlarne, per me l'istituto, a me gli ho anguio anche trascinò me la pulisco, però no, non me ne avuto proprio niente. Io la faccio come se l'istituto per me è mettere gli anziani ad aspettare la morte, lì è una precamera della morte, quindi l'istituto aspettano a morire e basta lì. Per me è una cosa disumana, forse perché l'ho vissuta, l'ho vista per tantissimi anni e non... quando vedo certe cose sbagliate non ci riesco a stare zitto. Per me era una tortura, no? Io figurati che arrivavo al punto che quando c'erano quelle cose lì, cioè quei trasporti e quei tutto, quindi non andavo, ecco, perché mi conosco troppo bene, reagisco. Anche per me no, non mi sembra molto giusto, se uno lo può tenere ed è in grado di tenerlo, secondo me deve tenerlo. Non mi sembra giusto mettere gli anziani in quei posti lì, perché no, non mi piacciono manco a me. Si sentiranno traditi quando li fa queste cose. Ma non che non scelga lui. Scelga lui e non voglio rompere il scatolo, nessuno mi mette in un istituto. Allora sono anche d'accordo, ma che sia, che capisca il suo fatto. Ma a metterselo io no, non se ne parla. Se io ho la possibilità di tenerlo al 100% io lo tengo. Lo tengo in casa, non mi interessa niente. No, non mi piacciono quelle cose. Un amico vuol dire che è stato costretto a mettere l'istituto alla madre perché praticamente non camminava, è diventata, non muoveva più le gambe, tutto quanto, lui lavorava, il padre non c'è, perché lui è figlio della ragazza madre, quindi è stato costretto, cioè, già cosa facevo, spiegamelo cosa facevo, non potevo farne a me, io già lo sai che per il modo di ragionare che io non l'avrei mai messa, però purtroppo non c'era nessuno che la potesse tenere, te mettere una donna magari a casa, già, costa più la donna, ma detto, dell'istituto, conviene più mettere l'istituto che la donna. Non penso però, vabbè che devi pagare i contributi, tutte queste cose qua. Però alla fine secondo me siamo lì, magari paghi qualche cosettina in più, però alla fine siamo lì. E lui aveva lo stipendio, ma non è altro che va di chissà quanti, E la pensione della madre dello stipendio, è un po' una parte di stipendio su, si paga l'istituto. E fa un grosso sacrificio perché una parte di stipendio la deve togliere. Però dice che da quando l'ha messa l'istituto è rinata perché dice che la stanno facendo vivere bene, l'ha messa lì, l'ha messa sua Serra Secca, dice che la stanno facendo tutto rianimata, dice che ride, che scherza, che fa, perché c'è il personale, dice che ci sa fare. Se c'è il personale che ci sa fare, è meglio così che persone come si deve, ma invece che tutti, perché è stato pure io sono entrato a portare le bombole, no, non mi piacciono per niente. Poi anche io si dice, tu sei andato a portare la bomba io con l'ambulanza, una volta sono sceso a San Pietro per fare di no. Cazzo, ne venivi un po' che di gambe parcheggiate vicino ai cosi, ai tavoli, di gambe finte, cazzo, di brutte, parcheggiate vicino ai cosi, ai comuni. Gente tutta cantata con la braghetta bissa, tutti i pantaloni vara a vara, mamma, non ritratta le panute da vecchia. Per carità, non mi farò parlare di quel posto, anche quello ancora va, cioè chiuderlo, blu, abbattano, non chiuderlo, e poi sono che viene che prenderle e mettere a sua volta in un manicomio, dai, cazzo. Io mi chiudo e si rivela che sono capo il pirito, Giovannino, mamma mia, sono un po' di avvia che spigliava, mi sembrava un diario, mi diceva un po' tanto la cadria, lui si dal volo, cazzo. Una via di umano, non ho capito che era un uomo a noi. Sì, sì, glielo ricordo, ma per dire quello lì, l'istituto ha girato tantissimo, ti ripeto, quello di Via Valdetta, quello di Via Valdetta è un istituto tenuto molto bene, ascensori, pavimento lucido, tutto pulito, non si può dirle niente. Addirittura so che sono tipo stanze d'albergo, c'hanno il bagno e il televisore in camera. Io la giudico, ma sinceramente sì, è meglio del deposito, che il trattano bene, è vero, non è che sia bugia, quello che è vero. Casa Serena sono andato un po' di volte, a Casa Serena diciamo che animano molto, c'è spettacolo, li coinvolgono molto gli anziani, fanno spettacolo, io mi ricordo che qualche volta siamo andati a fare lo spettacolo con la Croce Blu, siamo andati una volta. Paga, paga. così è, costano un bel. E poi alla fine l'ha tenuta mia sorella e l'ha acquisita, non c'è stato bisogno. Va bene. Comunque dai, già. Se ce ne sono questi tutti, può bene spendere, guarda, qualche cosettina in più, però magari mandarli in un istituto come si deve, perché lo più caro di chi su è Baggiara, una cosa del genere. E anche quello dice che è bellino, e lui mi ha avuto in malattia. Anche quello dice che è bellino, come si tutto. Ma anche il San Paolo è bello, anche se è più vecchio di quelli, ma tenuto perfettamente, un bel giardino, l'entrata a un parco per girare l'ambulanza e cose. C'hanno proprio, diciamo, è esteso molto bene, dai. Sì. Bisogna portarci in questi posti, ma quello lì, cioè, va già ai subacchi, perché è un istituto di lusso, la facevano anche la pubblicità in televisione. Quelli però paghi, perché li tengono veramente bene gli anziani. Però ce ne sono anche altri che li tengono bene, ma benissimo, mamma mia, che vorrebbero chiusi dal primo giorno che ha aperto. Però grigio, sì. Cosa stavo dicendo? Con l'istituto, quello di Serra Secca, e tutta gente bene, tutte mamme di avvocati, di ingegneri, di gente che ha di non bene. Sto dicendo che sono tenuto un bene per quello, perché sono tutte madri di avvocati, di giudici, addirittura di un come si chiama? Di un assessore, di insomma mi hanno detto delle amiche che ci lavorano, che è tutta gente così autolocata, tutta gente bene, dai, di Sassari e anche di Furi. Cioè adesso lo stanno gestendo dei napoletani in Italia. Scappa. Sì, ma già si sa che aveva un patrono, che è una persona che è meglio, hai capito, alla politica, non c'è bisogno di essere ricca, già lo sai. No, non lo so. Lo dico io però. Già te lo dico, care. Sapevo che era del cognato di una persona che conosceva lui. Scappa. Sì. Ma già lo so, già chi... sono persone proprio, si trattano un bel bene lì, si trattano, perché me ne hanno parlato bene. Sì, ma adesso in gestione non c'è più, ce l'hanno dei napoletani, capito? Ce l'hanno dei napoletani adesso in gestione, non ce l'hanno più loro. Ce l'hanno per niente? Sì, dei napoletani. Una cooperativa di Napoli, mi pare, sì. E scappa. Non lo sapevo questo. Ma è così, perché praticamente ci lavora un'amica mia, dai. Ci lavora Simona. Me lo stavo dicendo. Cabagara. No. Non lo sapevo questo. Che ce l'avevano questi qua. Sì, l'hanno preso loro, ma comunque se sono persone simili, è che l'innamorellare sono sempre un po' come farrone in certe cose. Sì, vabbè, si fanno sempre riconoscere, lasciano la firma. Una volta questa amica mia faceva animazione nei camping d'estate, no? E mi ha conosciuto questi due avvocati napoletani, siamo diventati amici e cose. E un'estate gli avevano telefonato e gli avevano detto: guarda che dobbiamo venire in Sardegna, ci troviamo. E mi ha detto: sì, va bene, mi sa che a me per andarci da sola ha invitato a me, a mia moglie, poi c'era mio cognato da Urbia con mia cognata. E siamo andati tutti quanti insieme a mangiare al ristorante lì a Castelsardo. Tra Castelsaldo e Badigi, questo va per Badigi, dai, non ricordo che c'è in alto, in alto. Adesso non so molto come si chiama, non lo ricordo più. Beh, fatto sta che c'era un discorso, no? E mia moglie ha detto, i napoletani si sa come sono. Dice, no, voi credete che i napoletani siano tanti così, ma che, come sa, che lei sa di successo questo a tui. E i napoletani ci sono le persone brave e qualcuno, ma pochi, che sono persone che sono poco affidabili. Però dice, il vero napoletano è una persona seria. E infatti lo dice lui. E niente, talmente erano siti che essendo avvocati hanno mangiato pesce, pasta al forno, hanno mangiato non so quanti antipasti di mare, e noi stavamo mangiando la pizza. E gira gira volevano che noi pagassimo, facessimo il conto praticamente tutto unico e diviso a metà. Io ci sono male. Sempre la ramire ma lasciano. Cioè io ho già mangiato la pizza tua, chi non vuoi PD e mi devo pagare un conto di te, già mi mangiato una spigola di roba di 1,5 kg, in due, cazzo, erano morti di fame, mangiavano come 7 ganasci, dice tanto paghiamo insieme, chi se ne frega, allora mangiano pizza e noi mangiamo questa roba, ci diceva ma aggiustate, no, non ne voglio io. Ho detto così, ma così mangio di tutte le non devo pagare un cacchio di niente. Io mi faccio il conto separato, io, mia cognata, mio cognato, mia moglie, i bambini abbiamo mangiato pizza, quindi pizza abbiamo pagato. Io per la firma lasciano già. Si stavano offendendo perché c'è che noi dovevamo pagare tutti i gratis. No, queste qui sono leggi che ci avete a Napoli, qua non è così. Qua sì che mangi tutti la stessa cosa, mangi tutti quanti di roba costosa, si fa così. Se uno mangia la pizza, se l'altro mangia roba che costa un sacco di dinaro, io non è che mi devo pagare per tutto, non ho capito. Ma voi fate i discorsi, infatti, non sono tutti così. Vai, vai Gina, vai. Poi essendo avvocati potevano dire paghiamo tutto noi, chi si ridina a Virani, non è che hanno problemi di sudio. No? La gente italiana, non me lo dico più, non mi va, diceva già potevate fare così, ci avete fatto fare per stare a me non me la fottina, perché me lo fa prendere per i fondi? Sempre così so. Poi dove mappa. Lasciano sempre la firma, lasciano, sono proprio, guarda, quello che ti sembra più serio, in qualche maniera dirà tutti. Sì, sì, è così. Una volta questo qua si è fermato a Porto Torres, mi chiama dentro un portone, un napoletano, oh mio amico, vieni. Cosa c'è? Vieni, ti faccio vedere una cosa. Cosa mi arriva a vedere? Io che sto lavorando. Guarda cosa ti faccio vedere. Se l'ha cavato un corriere, una catenina, un anello e un orologio d'oro. Mi ha detto dammi tutto quanto, 1.000 euro, mi fa un assegno e me ne sta andando. Vai. Questo qui dice, io sono un marinaio, vedi, guarda, mi ha fatto dei documenti, c'era la fotografia vestita da marinaio. C'è un marinaio, l'abbiamo fregata a un gioielliere che sono un rappresentante dei gioielli che stava viaggiando in nave, l'abbiamo fregata, dimenticata e l'abbiamo fregata. Però dobbiamo farcela fuori subito perché se ci trova una tonta vuoi amare. No, così la ciappare a me, e dopo ti faccio la segna, lo firmo, così mi trovavo subito, c'è la firma mia. Ho detto vai, tieni, e poi questa qui non è roba loro, sicuramente è roba di Bologna, si fa nero per la vergogna, poi magari dopo 2 giorni diventa vanella. Stati, così ti avete. Andiamo, io, ma vieni, amico, vieni. Sono sempre i soliti, sono sempre i soliti, non cambiano mai. E dicono, oh, ma non è vero, ma non è così, no. Ce l'hanno nel sangue, ce l'hanno. Se hanno fregato la moglie di lasciare il produttore, se hanno venduto sono venduto a Robadoro, che poi loro non era. Quando è andato da loro e fece fare la guerra, ha detto che loro non l'avevano visto manco da lontano. Vediamo di dura. E allora ha detto al marito questa storia, ha fregato 200 euro mi pare. Ha detto al marito, il marito ha chiamato in caserma questo qui, l'ha trovato, l'ha portato in caserma, il marito è maresciallo. Si è fatto tornare in su, mi ha detto questo per volerla bene, non si permetta più di fare queste cose, da questa zona scompaia, perché se lo trovo, le controllo tutto, si dà l'ultima, l'ultima cosa che c'è, se questo c'è. E ma Brughi da farsi buttare su un carotto. E lo sai come sono le donne che si fanno fregare, come quegli orologi che vedono al televisore, 10 orologi va di 50 euro, 10 orologi. Avevo comprato anche io la volta, uno l'altro l'amico 10 euro, l'altro amico 10 euro, l'altro amico, io ci ho guadagnato, però erano orologi in capo. Che no, magari funzionavano sì, ma no, non guardavano a niente. E funziona, da un'altra Santo Stefano, sempre non goccio d'acqua, quanto non ce lo riduco. Sono meglio che siete dei marocchini che chi sei. Sì, sì, quelli dei marocchini durano di più. Io ne avevo uno Rolex, preso fuori e cosa, da marocchino, preso, aspetta dove l'ho preso, a Venezia, no, a Firenze, cioè l'ho preso, mamma mia, si va a staccare il più, alla fine glielo ho dato in giro, e me l'ho tolto dalle scatole, è partito da 70 euro. Me l'ho tolto dalle scatole, era bello l'orologio, tutto quanto, era perfetto, appunto, bellissimo, io sono andato a vedere in Venezia, l'originale era uguale. Beh, fatto sta che questo orologio qua mi è durato la tela Santo Stefano anche a me. Prima cominciato si è fasciato l'uberno, nel perno me l'hanno messo gratis. Dopo mi sono lavato le mani, è tratta acqua, mi si è bloccato, ha giubilato di dargli tutta la mondetta. Ma dove? Ti sei svegliato male? Sai chi erano buoni? Quelli della Casio, quelli a quattro. Se non si primavano mai, funzionavano sempre. Cristalli liquidi che prendevano i negrini. Ma non bene quelli, no? Sì, ma come estetica? Per andare a lavorare, ma non bene quelli. Per andare a lavoro. Ma non c'hanno estetica, non c'hanno l'estetica, come dice Vincenzo Guaradibù. Lì potrebbero andare bene, dai. Per buone imbusciacca, eccetera, eccetera. Però funzionavano sempre. Sì, sì, è vero. Ne ho avuti anche io, quelli neri, stai dicendo tu, quelli con i cristalli liquidi. Sì. E li ho avuti anche io, erano semplici, però andavano bene. Ma le orologi che funzionano bene non hanno, tranne quelli minimi che si possono salvare, ma altri tipi di orologi che funzionano bene, c'entra l'acqua, appena appena non funzionano più. Ma piuttosto che hai fatto tutti da niente del genere, meglio pigliarne da esse. No, guarda, gli unici orologi che vanno bene sono i soci. Io un soci ce l'ho anni, quello che c'ho addosso. Non mi si è mai rotto, mai. Non ho mai cambiato la batteria. Adesso sicuramente fra poco mi si consumerà del punto, perché c'era un mediano, c'avevo 5-6 anni tranquillamente, non mi si è mai scaricato. Poi c'ho l'altro, il Sector, c'ho un Sector, un Swatch, un orologio a cipolla in argento, che era di mio padre. Cioè io veramente l'ho regalato a mio padre al compleanno e lui ha detto che non le piaceva, non se ne faceva nulla, che ce l'aveva l'orologio. E allora gli ho detto, papà, se non ti piace, pazienza. Dice, no, tienilo tu, non c'è problema, è come se te l'avessi accettato, perché non li uso quegli orologi lì. No, non li uso neanche io gli orologi. Io non posso, non me ne metto mai. Per me darmi un orologio e darmi niente, perché non indosso. No. Io ne ho uno di quelli belli, regalato alla crisi, ma non indosso frutta, no, non mi va. Esiste che è aumentato il spazio. Sto diavolo. Qua sul 41 che c'è la portante, dai.